Siamo in collegamento telefonico con Elisabetta Lodoli, regista del documentario Malamore Centra, che sarà presentato alla Sala Zavattini, Fondazione AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico a Roma, il prossimo giovedì 22 marzo. E al termine della proiezione ci sarà un incontro con la presenza anche della stessa Elisabetta. Intanto, benvenuta Elisabetta. Grazie, ben trovati. Ce lo descrivi il tuo lavoro? Assolutamente sì. Allora, prima di tutto la proiezione è alle 7 di sera e ci saranno anche Daniele Vicari, regista, e la psicanalista Manuela Freire a incontrare il pubblico dopo. Allora, il film è un documentario. È un documentario che racconta, parla di violenza di genere nelle relazioni affettive, violenza contro le donne, ma dà la parola a tre uomini che l'hanno agita e che poi, spaventati, hanno cercato un cambiamento rivolgendosi ad un centro specializzato per uomini maltrattanti. Senti, com'è partito tutto? Allora, il progetto è nato dal fatto che appunto io volevo fare un documentario sulla violenza di genere contro le donne, però insieme alle persone che hanno collaborato con me, Anna Maria Tagliavini del Centro delle Donne di Bologna e poi la mia sceneggiatrice Federica Iacobelli, abbiamo ragionato sul fatto che sarebbe stato più interessante sentire la voce degli uomini che questo avevano compiuto. Senti, quanti interlocutori hai avuto? Tre uomini ho incontrato attraverso questo centro di Modena, Liberiamoci dalla violenza LDV, che è un centro, il primo centro in Italia pubblico, nel senso che gli uomini ci possono andare gratuitamente, è gestito dalla Regione Emilia-Romagna in anonimato e senza pendenze giudiziarie, senza penali. Sì. Senti, che impressioni ne hai ricavato? Allora, io questi tre gli uomini che ho incontrato erano alla fine del loro percorso, perché questo era l'accordo con gli psicologi con cui avevamo trattato. Le interviste io le ho potute fare anche liberamente, non con la presenza degli psicologi, e l'impressione che ne ho ricavato, diciamo, è il fatto che questi uomini sono uomini perfettamente normali e sono uomini che, appunto, la violenza di cui parliamo è una violenza molto nascosta, molto interna alle relazioni affettive che avviene dietro, no? Le finestre delle case. Però proprio perché avviene in situazioni anche normali, inquieta molto di più e inquieta non solo gli uomini che l'hanno compiuta, ma inquieta anche noi donne e noi tutti che ascoltiamo questi racconti, perché è molto vicina a noi. Io non parlo di femminicidi, non ho incontrato degli assassini, ho incontrato degli uomini normali che funzionano perfettamente nella loro vita sociale, hanno un lavoro, hanno degli amici, quindi assolutamente non uomini capaci di tutto, ecco. Però perché si scatena allora questa violenza? Da dove viene? Ecco, questo è stato interessante analizzare le varie ragioni, motivazioni, ecco, per cui questi uomini poi sono arrivati a compiere questi gesti. E quindi le motivazioni sono di vario genere, ce ne sono sicuramente c'è una base di cultura dietro tutto questo, una cultura patriarcale che resiste ancora nel 2018, resiste forte e fa sì che gli uomini si sentano anche molto, molto fragili di fronte a situazioni che non rientrano in quello che loro ritengono dovrebbe essere la loro vita gestita da loro stessi. Elisabetta, com'è l'impianto del documentario? Sono interviste o segui anche i tuoi protagonisti nel corso delle loro azioni? Allora, il documentario è costruito sulle loro interviste, però nel documentario io non ho potuto usare, diciamo, lavorare con gli uomini originali. Ho dovuto affidare le loro parole, che quelle sono però autentiche, non le ho toccate, a tre attori che si sono tolti, diciamo, l'addizione, quindi avendolo io girato in Emilia-Romagna, sono attori che hanno il loro accento naturale della zona da cui provengono e che hanno prestato, diciamo, il corpo. E vengono però anche loro inquadrati in penombra, quindi molti non si riconoscono. E la cosa interessante è che gli uomini che l'hanno visto dicono che questo effetto di non riconoscimento del volto fa sì che scatti un principio di identificazione maggiore, perché quegli uomini possono essere chiunque, può essere anche appunto l'uomo, il pubblico che ascolta. Senti, Dopodiché sì. io, sulla base delle loro interviste, che parlano appunto dei loro episodi di violenza, della loro storia di famiglia, da dove viene la violenza, che cosa è successo durante appunto questo processo di questo trattamento, com'è la situazione attuale, quali sono le motivazioni appunto che li hanno spinti, ecco, viene fuori un quadro abbastanza ampio di queste cose. Poi io ho usato diversi linguaggi cinematografici e artistici, in maniera evocativa, materiali di repertorio. È un lavoro complesso anche dal punto di vista linguistico. Senti, invece, che tipo di che idea ti sei fatta rispetto al tipo di lavoro che occorre fare per superare, parlo per gli uomini, questa attitudine alla violenza? Allora, io l'idea che mi sono fatta è che per gli uomini ormai maturi, si tratta di riconoscere la propria rabbia, e cercare di saper gestire i conflitti senza dover ricorrere alla violenza. E per gli uomini credo che il lavoro da fare sia quello di una messa in discussione della mascolinità, che mi rendo conto è anche una gabbia per molti uomini, perché c'è anche un dover essere maschi che sicuramente va stretto a molti, giustamente anche va stretto. Quindi questo sarebbe un lavoro da fare. L'altro che va più in profondità e più radice è, penso, iniziare dall'età scolare a un'educazione di genere, sia per ragazzini, sia per le femmine che per i maschi, che non ripercorra una divisione in ruoli e stereotipi che poi portano a questi scontri quando poi si cresce e si costruiscono relazioni d'amore o d'affetto. E a capire anche, approfondire la domanda del titolo, dice: ma l'amore cosa c'entra l'amore? Ecco, diciamo che la violenza non è un aspetto dell'amore, assolutamente no, però sicuramente l'amore, così come noi lo intendiamo, le relazioni affettive, hanno a che fare con questi episodi, vale a dire, insomma, se 9 uomini su 10 che compiono atti di violenza nei confronti di una donna sono legati a questa donna da relazioni d'affetto, di intimità, vuol dire che forse bisogna che cominciamo a riguardare che cosa chiamiamo amore, forse c'è qualcosa che non funziona. Sì. Elisabetta, che percorso sta facendo il tuo documentario? Allora, noi stiamo parlando da Milano. Oggi sono stata ieri sera, anzi, al Festival Internazionale Sguardi Altrove di Milano, sì, sì. E poi è stato presentato. In realtà il percorso l'ha iniziato con la Festa Internazionale del Cinema di Roma a novembre, e poi siamo andati anche a Washington, all'Istituto Italiano di Cultura, per l'8 marzo. Ci hanno invitato a rappresentare l'Italia in questa occasione. È stato molto interessante, e poi ce lo stanno chiedendo appunto tante situazioni e tante città. E saremo a Roma il 22, appunto all'AMOD, saremo di nuovo a Roma l'8 aprile al Cinema Nuovo Sacher di Moretti, e poi sarà a Genova, Padova lunedì. Insomma, sta facendo poco alla volta, con un ottimo passaparola, un buon giro. Allora, in questo senso, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più, se c'è una pagina Facebook, un sito internet? Una pagina Facebook, assolutamente. Il sito internet è ancora in costruzione. Diciamo, la pagina Facebook funziona bene. Benissimo. Le date, raccoglie le interviste, anzi, se tu mi mandi anche un link, certo, noi lo mettiamo. Allora, chiudiamo ricordando l'appuntamento con Malamore Centra di Elisabetta Lodoli, giovedì 22 marzo alle ore 19 alla Sala Zavattini dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico a Roma. Al termine della proiezione, l'incontro con Manuela Fraire e Daniele Vicari e la regista Elisabetta Lodoli, che ringraziamo e salutiamo. Elisabetta, a presto. Grazie e buona serata a tutti, o buona giornata, seconda quando andrà in onda. A presto. Grazie ancora, ciao. Ciao. Ciao, ciao.